Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento con l'attualità internazionale. I saluti vi arrivano da Mirella Lucchetti e Nadia Zammitti, che hanno scritto con me questa puntata, Filippo Aureggi, che darà musica e ritmo. Gli sms al 349-238-6666, commenti anche su Twitter, Giampaz oppure Nessun Luogo 24, infine quelli un po' più articolati, magari su Facebook, la pagina, cercatela, è Nessun Luogo Lontano, Radio 24. Parleremo di molti argomenti in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, però partiamo sempre da lì, ai noi, dall'Iraq. U.S. Special Forces launched a daring raid earlier this summer inside Syria to try to rescue James Foley and other Americans being held by ISIS. Now it's a race against time to save another American hostage. He's Stephen Sotloff. His captor, the man thought to have killed James Foley, is believed to be British. When people harm Americans anywhere, we do what's necessary to see that justice is done. Jim would never want us to hate or be bitter. We are just very proud of Jimmy. E l'uccisione di James Foley, come avete sentito, campeggia sulle prime pagine dei giornali. Se ne è parlato già da ieri, da quando la tragica notizia l'altro ieri notte era apparsa sui social con quel disgraziato video. Vedremo quanto e se il continuo dell'iniziativa degli Stati Uniti sarà efficace sul terreno. Quello che è certo è che l'Italia farà la sua parte, nel senso che è stato deciso l'invio di armi ai curdi. Di che tipo di armi si tratta, quanto saranno efficaci? E fra l'altro questa domanda è una delle domande che un ascoltatore ha fatto alla mail Nessun Luogo @radio24.it, Carlo, che chiedeva appunto chi paga queste armi che saranno destinate ai curdi, e poi chiedeva: l'Italia fa la parte del buon samaritano, le armi curdi sono un cinico calcolo economico dettato dal fatto di essere uno stato fortemente esportatore di armi? Di questo parliamo in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, e quindi buongiorno, ben ritrovato a Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, e lo potete leggere spesso anche su Sole 24 Ore. Gianandrea, ben ritrovato a Nessun Luogo. Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, l'Italia si prepara a mandare ai curdi e ai guerriglieri Peshmerga un carico di armi vecchio di 20 anni. Spieghiamo meglio di che si tratta. Ma si tratta intanto di, secondo quello che ha detto, quelle poche cose che ha detto, che hanno detto ieri, che ha detto, sulle quali ci ha informato ieri il governo, ha detto veramente poco, perché non ci ha detto neppure i quantitativi di armi che daremo ai curdi. Ma si parla di armi leggere, portatili, in parte sono surplus dell'esercito italiano, quindi mitragliatrici, sono le Browning calibro 12,7, le MG42, armi che abbiamo utilizzato nelle nostre forze armate, adesso le abbiamo messe in disarmo perché le abbiamo rimpiazzate con altri armamenti, ma sono armi che serviranno poco ai curdi perché non sono spesso compatibili con l'armamento che loro già hanno in dotazione, che è per lo più armamento ex sovietico. Un'altra parte invece di armamenti che gli forniremo è quella che abbiamo sequestrato nel 94 su una nave che stava violando il blocco e l'embargo internazionale sulle armi alla ex Jugoslavia. Erano 2000 tonnellate di armi ucraine che abbiamo intercettato nell'Adriatico e abbiamo poi conservato nelle caverne dell'isola di Santo Stefano, depositi militari in Sardegna di fronte alla Maddalena. Queste armi le abbiamo già prelevate nel 2011 una parte per rifornire i ribelli libici che combattevano contro Muammar Gheddafi in Cirenaica e quindi a Bengasi. La gran parte di queste armi sono ancora lì. Il governo ha detto che stanno valutando, perché non hanno parlato di consegne effettive, hanno parlato di valutazione, di fornire queste armi, in particolare anche lanciarazzi anticarro, quindi gli RPG, insomma quelle armi a corto raggio. Anche queste sono armi poco utili in realtà ai curdi, che avrebbero bisogno invece di missili anticarro che sono presenti in quell'arsenale, di artiglieria per fronteggiare le forze dello Stato Islamico, che non ce lo dimentichiamo, hanno saccheggiato i depositi di ben 3 divisioni irachene che fra Mosul e Tikrit sono sbandate nel giugno e luglio scorso, lasciando i loro equipaggiamenti nelle mani appunto dei jihadisti. Quindi io credo, per rispondere anche all'ascoltatore, in realtà L'unico costo che sopportiamo per aiutare i curdi è quello del trasporto di queste armi fino in Kurdistan, o forse fino a Baghdad e poi da lì chissà nelle mani dei curdi. Sì. Perché queste armi non ci costano nulla, le abbiamo requisite in parte, le altre le abbiamo comprate 40 anni fa o 30 anni fa e non sono più, e oggi le abbiamo messe in un deposito, in un magazzino in attesa di decidere cosa farne. Non ci sono grandi costi in questo senso per l'Italia. Semmai c'è la valutazione militare di dire: sì, facciamo un'azione simbolica, politicamente allineata con l'Europa, di rifornire, anche gli altri partner lo faranno, di rifornire i curdi, ma in realtà gli forniamo armi che non cambieranno gli equilibri sul campo di battaglia. Ecco, fra l'altro Lorenzo Cremonesi su Corriere di quest'oggi intervistava Fuad Hussein, che è uno dei capi del gabinetto curdo, il quale diceva la nostra lista delle priorità sono, addirittura parlava di blindati antimina ad esempio, e spiegava come i guerriglieri dell'ISIS, oltre ad avere alcuni automezzi come gli Humvee, che hanno già una loro blindatura ma in realtà non troppo efficace, li hanno poi rinforzati in maniera artigianale, quindi insomma dava delle specifiche molto molto precise, no, Gianandrea, su quello di cui hanno bisogno. Ad esempio parlava di visori notturni, quando cala la sera i peshmerga sono alla cieca, e mentre sostiene che i guerriglieri dell'ISIS si possono muovere con più agio. Certo, perché loro hanno requisito anche visori notturni, in particolare di produzione americana, che erano in dotazione all'esercito iracheno. Quindi la necessità dei curdi è stata spiegata molto chiaramente da diversi funzionari, anche militari delle forze di Peshmerga, dei combattenti curdi. Loro hanno bisogno di artiglieria per contrastare i jihadisti e riuscire ad avanzare, a riconquistare porzioni di territorio. Hanno bisogno di armi anticarro e contro veicoli blindati. Non ci dimentichiamo che i miliziani jihadisti hanno catturato anche dei carri armati Abrams americani, che erano stati consegnati appunto all'esercito iracheno. Fornirgli armi leggere servirà solo appunto a dare una parvenza di aiuto politico, simbolico, ma non cambierà appunto gli equilibri sul campo di battaglia. Ricordiamo anche che proprio su questo tipo di equipaggiamenti, che contro i quali i curdi devono combattere, la parte, diciamo, che riguarda la disponibilità di veicoli antimina, quella è importante, perché nel momento in cui intervengono gli aerei americani, per adesso in maniera molto blanda a dire il vero, contro le forze jihadiste, queste cambiano tattica, non conducono più assalti in massa perché diventano bersaglio per le forze aeree americane, ma cominciano a seminare sul terreno ordigni esplosivi improvvisati, come quelli che i talebani usano da anni contro la NATO appunto in Afghanistan. E in questo caso la presenza, la disponibilità di veicoli di questo tipo, come ad esempio le Jeep Lince italiane, oppure come i veicoli che sembra che la Germania voglia consegnare appunto ai curdi, protetti contro questo tipo di ordigni, quella sarebbe una fornitura sicuramente utile ai curdi, pur non essendo una fornitura di armi letali, ma solo di sistemi d'arma in grado di proteggere i combattenti curdi. Sì. Gianandrea, al 349-238-6666, un ascoltatore chiede: la magistratura italiana non aveva ordinato la distruzione di quell'arsenale? Immagino si riferisca a quello del 94. Sì, diciamo però questo anche, che nel 94, nel 2011, quando questi arsenali riapparvero con grande sorpresa di tutti, riapparvero in maniera curiosa, nel senso che il governo italiano di allora, il governo Berlusconi, decise di fornire parte di queste armi appunto ai ribelli libici a Bengasi, e la consegna doveva essere ultra segreta, anche perché noi avevamo un accordo, un trattato d'amicizia con Gheddafi, qualcuno lo ricorderà, però qualcuno, in maniera forse direi improvvida, decise di caricare questi container di armamenti su dei traghetti civili che dalla Maddalena si dirigevano verso la Sardegna e poi da lì verso l'Italia. Ovviamente su questi traghetti anche i turisti videro questi container, la notizia si diffuse, la stampa sarda fece delle inchieste e anche la magistratura si mosse per capire cosa stava succedendo. Quel governo all'epoca mise il segreto di Stato su tutta la vicenda, impedendo anche alla magistratura quindi di fare il suo lavoro, ma di fatto la notizia della presenza di questo arsenale, diciamo, tenuto nascosto e utilizzabile per operazioni come quella che stiamo facendo adesso con i curdi, divenne di dominio pubblico. Grazie mille Gianandrea Gaiani anche per questa precisazione. Lo ricordo, direttore della rivista Analisi e Difesa, collabora fra gli altri con il Sole 24 Ore. Buona giornata Gianandrea e buon lavoro. A voi, grazie, buon lavoro. E al 349-238-6666, ma anche su Facebook, c'è già chi scrive: a proposito delle armi ai curdi, mi sa che gli diamo un pacco. E un'altra ascoltatrice che dice: ipocrisia occidentale, armi leggere perché non possono essere usate poi per l'indipendenza. 349-238-6666 se volete continuare a commentare, oppure Twitter qua sotto i miei occhi, Giampaz, oppure Nessun Luogo 24. Adesso apriamo un'altra pagina, lo facciamo con Lorenzo Vidino, analista specializzato in terrorismo al Center for Security Studies di Zurigo. Dottor Vidino, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie mille. Allora, io partirei da quel video dell'esecuzione, dell'uccisione di James Foley, il sospetto oramai sempre più fondato che l'assassino sia di origine britannica. Questo riapre quello scenario spaventoso del corposo e crescente reclutamento jihadista anche in seno all'Europa. Che profilo hanno i giovani che lasciano l'Europa, ad esempio l'Inghilterra o la Francia, per andare in Siria, e quanto questo fenomeno è preoccupante e quanto è in ascesa? È un profilo vario, diciamo. Innanzitutto cominciamo dai numeri, che sono molto più grandi rispetto alle mobilitazioni che abbiamo visto nel passato. Il fenomeno del jihadismo di esportazione non è nuovo, 10 anni fa erano in Iraq tanti europei, in Afghanistan, in Somalia, ma i numeri della mobilitazione per la Siria e l'Iraq sono molto più grandi rispetto al passato. Dall'Inghilterra si parla di 500 persone, dalla Francia 700, dalla Germania 300-400, in Italia sono numeri minori, ne possiamo parlare dopo. Sono tendenzialmente persone molto giovani rispetto anche al passato, dove spesso erano in soggetti sui 20-30 anni. Qui parliamo in molti casi addirittura di teenager, ci sono casi di 14-13 anni, spesso soggetti non noti alle forze di intelligence, soggetti che si radicalizzano molto velocemente. Abbiamo poi determinati profili di soggetti noti e con un po' di una militanza passata, però è un fenomeno soprattutto delle nuove generazioni e dei nuovi adepti al jihadismo. È chiaro che queste dinamiche, questa velocità di radicalizzazione, questa facilità di recarsi in Siria e in Iraq e di tornare, questo avanti e indietro che spesso questi soggetti fanno, creano dei problemi serissimi, delle paure molto forti in tutte le capitali europee. Il pericolo che questi soggetti, come possono compiere determinate azioni come quella che abbiamo visto in quel video atroce dell'altro giorno, possono compiere azioni simili in Europa, è chiaro che è un'immagine, una paura che da un anno e mezzo, due, da quando questo fenomeno è visibile, tutti hanno. L'attentato che abbiamo visto a Bruxelles nel maggio scorso, quando un jihadista francese, dopo aver trascorso un anno in Siria, ha sparato, ha aperto il fuoco al museo ebraico di Bruxelles uccidendo 4 persone, è visto da molti come potrebbe essere quello che è lo scenario che potremo vedere in futuro. Ecco, dottor Vidino, come avviene il reclutamento di questi giovani jihadisti? La rete internet e i social svolgono un ruolo, o piuttosto lei vede un ambiente fatto di un ambiente familiare o amicale, comunque sociale, l'ambiente più chiuso, quello il vero motore poi? Anche qui abbiamo diverse dinamiche, abbiamo tutte e due le dinamiche da lei citate. Quello che vediamo è innanzitutto che il reclutamento forse non è il termine più adatto, in realtà non sono i gruppi come lo Stato Islamico e gli altri gruppi in Siria che si mobilitano per cercare adepti, ma sono i simpatizzanti dall'Europa che si mobilitano per raggiungere la Siria e l'Iraq, quindi non è un reclutamento nel senso che lo Stato Islamico ha bisogno di gente, è il contrario. Come si crea questo contatto che parte dal soggetto europeo che vuole raggiungere questi gruppi? Spesso è tramite conoscenze, questi soggetti conoscono qualcuno, sia un qualcuno che conoscono per motivi familiari, un fratello, un cugino, oppure un compagno di scuola, qualcuno nel quartiere che conoscono in qualche modo, quindi può aprire le porte, può fare da tramite per poi entrare in questi gruppi. Che generalmente sono non molto propense ad accettare persone che non conoscono, però rispetto al passato, rispetto alle dinamiche viste con Al-Qaeda negli ultimi 15 anni, esiste anche un reclutamento o comunque un contatto via internet, lo vediamo in maniera molto più frequente. quindi soggetti che semplicemente tramite social network, tramite Facebook, tramite Twitter, tramite Instagram riescono a entrare in contatto con dei soggetti che sono in Siria, che sono in Iraq, riescono a stabilire un dialogo e senza che ci sia un contatto faccia a faccia riescono poi a in sostanza farsi dare le coordinate giuste ed entrare poi in Siria e in Iraq. Sì. Dottor Vidino, sui nostri social, sul Facebook, un ascoltatore dice: questi soggetti non devono avere il permesso di volare verso le destinazioni, vanno fermati prima. Però dobbiamo anche spiegare che non è che prendono un volo direttamente per Aleppo, per Raqqa, per Erbil, no. Si arriva al fronte magari passando per Istanbul, poi si va alla frontiera turco-siriana, si prendono contatti, insomma non è che si può vietare, si possono bloccare tutti gli aeroporti, no? Londra, Parigi in uscita perché... A parte questa dinamica, chiaramente nessuno parte con il biglietto per Raqqa da Londra o da Francoforte o da Milano, ma esiste anche un problema più legale. Anche se esiste un sospetto che questo soggetto stia per andare in Siria, il fatto in sé non è un crimine. Entriamo in dei problemi dal punto di vista giuridico, che chiaramente in uno Stato diritto sono fondamentali. Qual è il crimine che un soggetto che vuole andare in Siria compie? A meno che le autorità non abbiano delle informazioni chiare che in un processo, quindi parlando da un punto di vista giuridico, reggano, che dimostrano che questo soggetto sia stato reclutato o comunque faccia parte sia integrato in un gruppo, chiaramente la legislazione cambia da paese a paese in Europa, il fatto di partire per la Siria non consiste in un crimine per sé. Quindi abbiamo svariati casi di soggetti che è risaputo che stanno per andare in Siria a combattere, ma le autorità devono semplicemente guardarli partire dall'aeroporto. Portiamolo questo discorso all'Italia. In Italia esiste il reato di reclutamento, ma è punibile solo il reclutatore, non il reclutato. Quindi il soggetto che viene reclutato non compie nessun crimine e quindi se parte le autorità italiane lo stanno a guardare, non possono arrestarlo, a meno che non riescano a stabilire che sia già integrato in un'organizzazione terroristica, cosa non facile da dimostrare. Quindi esistono, chiaramente se uno lavorasse in un paese non democratico queste cose non sono semplicemente mette in galera come fanno in certi paesi nordafricani per esempio, ma in un stato di diritto in paesi europei è molto difficile. Chiarissimo. L'ultima domanda riguarda invece il rischio attentati in Europa, il rischio che alcuni di questi elementi decidano di colpire l'Europa stessa, proprio nel momento in cui l'Europa sta iniziando a fornire armi su quel fronte iracheno e curdo così, così caldo. So che è una domanda da decine di milioni di dollari, però quanto secondo lei è alto il rischio di azioni all'interno dell'Europa? È chiaro, difficile dirlo, da una parte uno non vuole essere allarmista, dall'altra bisogna considerare certi fatti che sono davanti agli occhi di tutti. L'attentato di Bruxelles l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato, c'è stato un altro attentato sventato dalle autorità inglesi a ottobre dell'anno scorso in cui tre soggetti reduci dalla Siria sono stati arrestati perché pianificavano un attentato dello stile di Mumbai, cioè in sostanza un assalto a luoghi turistici con armi automatiche, e anche questo progettato da soggetti che erano tornati dalla Siria. Abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo decine e decine di video di questi soggetti in Siria postati su internet in cui minacciano i paesi di origine, dalla Danimarca alla Germania al Belgio. Le intenzioni, l'ideologia c'è da sempre, le minacce ci sono da sempre. È chiaro che gli ultimi sviluppi geopolitici, l'intervento americano, la fornitura di armi, è chiaro che possono aumentare questo rischio. Diciamo che da un punto di vista strategico lo Stato Islamico si è focalizzato sullo scenario siriano e iracheno nell'ultimo anno e mezzo. È chiaro che il momento in cui l'Occidente mette il bastone tra le ruote di questo piano strategico che gli si sa, è chiaro che l'Occidente può diventare un nemico a questo punto primario e non essere un nemico secondario come era fino a qualche settimana fa. Grazie Lorenzo Vidino, analista specializzato in terrorismo, Center for Security Studies di Zurigo. Buona giornata, buon lavoro Vidino, a presto. Grazie a voi, salve. Sempre 349-238-6666 per questi commenti, anche Facebook. L'ascoltatore prima, quello che diceva, fermiamoli prima che partano, ricorda un altro aspetto fondamentale, quello economico-finanziario, e dice la cosa fondamentale è bloccare gli aiuti economici che i paesi del Golfo danno ai terroristi Legacy Qatar. Continuate a commentare, io sono qua a leggere i vostri commenti. Lorenzo Vidino raccontava di due scenari che appartengono al passato più o meno recente. Uno era appunto l'Iraq, l'altro era l'Afghanistan. Sull'Afghanistan si sta chiudendo una lunghissima parentesi, esperienza delle truppe internazionali lì, ma non è tutt'altro che risolta la crisi in Afghanistan. E un attacco di due giorni fa a sud di Kabul ha visto 700 talebani andare a colpire un villaggio, un nodo strategico delle comunicazioni della capitale, non soltanto comunicazioni logistiche, militari, ma anche per l'economia vitale, per l'Afghanistan. Allora ne ho parlato con Claudio Bertolotti, che è un analista strategico indipendente, lavora fra gli altri per il CEMIS ed è stato caposezione della controintelligence della NATO per 2 anni, proprio tra Kabul e Khost. La prima domanda, partiamo dal fatto di cronaca, scontri a sud di Kabul, un luogo inconsueto, nel senso che un attacco così massiccio vicino alla capitale desta preoccupazioni. Sentiamo Bertolotti. Logar è effettivamente molto vicino alla capitale Kabul ed è sulla via di comunicazione che porta proprio alla capitale. L'attacco di Logar in particolare fa parte di una serie di analoghi attacchi condotti nei giorni scorsi in altre province del paese: Helmand a sud, Nangarhar a est, Kunduz a nord e ancora Kunar. Il fatto che si sia colpiti così vicino alla capitale, inserito in un contesto più ampio, cioè di attacchi portati a termine su tutto il territorio nazionale, porta a definire un quadro, diciamo così, strategico da parte dei gruppi di opposizione armata che hanno manifestato di voler colpire e di poter colpire ovunque si vogliano farlo. E Logar rientra in questa strategia, in questo potenziale disegno strategico. In sì. più, l'area stessa di Logar è in un certo senso strategica per tutte le parti in conflitto. Di certo è un'area molto importante dal punto di vista minerario e per gli investimenti che sono stati fatti in quell'area da investitori stranieri, e tra questi primi certamente i cinesi. Poi per il controllo delle vie di accesso a Kabul, che da sud portano alla capitale e danno la possibilità ai gruppi di opposizione armata di muoversi agevolmente per la condotta di azioni offensive di tipo asimmetrico, come gli attacchi suicidi, le imboscate, gli ordigni esplosivi che a Kabul trovano riscontro, e in particolar modo nel 2013-2014 le statistiche descrivono un fenomeno in aumento. E poi anche per la sicurezza, per le forze di sicurezza, perché è la via di accesso alle province del sud e dell'est, in particolar modo per le forze di sicurezza afghane, che muovono molto di più su linee di comunicazione terrestri e non aeree. Dunque qualcosa sta cambiando sul campo di battaglia, ma insomma, in effetti sarebbe più corretto dire che qualcosa sta continuando a cambiare, perché i gruppi di opposizione armata fin dall'inizio, e imparando dei propri insuccessi, hanno adeguato le proprie tattiche in base alle contromisure adottate dalle forze di sicurezza internazionali, e lo hanno fatto molto più velocemente di quanto non siano riuscite a farlo le stesse truppe della NATO. Insomma, i Taliban hanno dimostrato sostanzialmente di essere molto capaci, un po' su tutti i livelli, certamente sul piano militare, riuscendo a imporre una propria presenza sull'80% del territorio del paese, e il fatto che gli attacchi si siano sviluppati in tutte le principali aree dell'Afghanistan lo confermerebbe. Sul piano politico, perché hanno imposto ritmi e dinamiche di un processo negoziale che aprirà a loro l'accesso a forme di potere, formale o informale, questo poco importa, quello che sarà l'Afghanistan post missione ISAF. E ancora di più su quello mediatico, perché le loro azioni trovano spazio proprio sui media, nazionali e internazionali, così indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo di battaglia. E proprio dai media il messaggio, l'evento, l'atto, l'attacco viene amplificato, e che oggi si sia qui a parlarne è una conferma. Questa è la prima parte della chiacchierata con Claudio Bertolotti, analista esperto di Afghanistan, perché è vero che si è riaperta la crisi in Iraq, ma l'Afghanistan è ancora lì che impone comunque l'attenzione. Nessun luogo è lontano. Nessun luogo lontano, stiamo tornando a riaccendere i riflettori sull'Afghanistan, perché due giorni fa un grossissimo attacco portato da 700 talebani ha, come dire, rimesso a nudo quelle che sono le debolezze strutturali, le fragilità di questo paese, soprattutto non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista delle forze di sicurezza. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Claudio Bertolotti, che è un analista strategico che ha lavorato anche per 2 anni in Afghanistan, studiando fra l'altro proprio queste cose. Però voglio tornare ai vostri messaggi, 349-238-6666. In particolare un ascoltatore chiedeva qual è il profilo dei reclutati, chiamiamoli così, anche se il dottor Vidino ha specificato meglio che non si tratta di un vero e proprio reclutamento, ma chi qua in Europa decide di andare a combattere lo fa di sua iniziativa, nel senso che va ad abbracciare quella causa, non c'è una cooptazione vera e propria. Ebbene, la stragrande maggioranza di questi miliziani, di questi jihadisti, sono di seconda generazione, molti convertiti. In Germania e in Belgio il 25-30% sono convertiti all'Islam. Il dottor Vidino dice: ecco perché in Italia lo scenario è diverso. Queste sono parole sue che vi riporto, perché appena ho visto l'SMS e l'avevo appena salutato, lo abbiamo riraggiunto per rispondere ai vostri messaggi, appunto al 349-238-6666. E poi ce n'è un altro che dice: grazie al Fan Renzi, quanti terroristi sono arrivati in Europa dei 100.000 coi barconi? Non ci credo neanche uno, dice povera Europa. Se devo dire la mia personalissima opinione, ma in realtà lavorando negli ultimi 2 anni anche con alcuni dei magistrati italiani che lavorano proprio su queste cose, è difficile che un terrorista, un jihadista, qualcuno che abbia mire di questo tipo arrivi con un barcone in Italia. Magari arrivano in aereo, arrivano con un passaporto regolare, magari sono seconde generazioni. Insomma, il terrorista straccione che arriva col barcone a Lampedusa o a Pozzallo, francamente mi sembra un'ipotesi veramente molto molto distante, perché denuncerebbe dei movimenti estremisti con le pezze al sedere, scusatemi il linguaggio poco ortodosso. Torniamo in Afghanistan, perché quello che è successo, quello che ha fatto l'Occidente negli ultimi 10 anni è emblematico: una presenza militare massiccia, un tentativo di addestrare le truppe afghane, l'ANA, l'esercito nazionale afghano, e poi è ora di ritirarsi. E quando ci si ritira cosa succede? È stata addestrata a sufficienza l'esercito afghano per contrastare i talebani? Questi 10 anni, questi centinaia di miliardi di dollari spesi nell'addestramento, alla fine funzionano, sì o no? Sentite che cosa dice sempre Claudio Bertolotti. Beh, io non sono particolarmente ottimista. Diciamo che in un'ottica realistica possiamo dire che dopo 13 anni di intense attività e oltre 50 miliardi di dollari investiti nella costruzione delle forze di sicurezza afghane, in particolar modo dell'esercito afghano, ma ancora di più per le forze di polizia, i risultati concreti sono assai modesti. Un primo segnale di un mancato successo è rappresentato dalla decisione di procedere con la riduzione degli organici delle forze di sicurezza afghane, dalle attuali 350.000 che verranno confermate nel 2014-2015, si arriverà a quota 228.000 circa a partire dal 2016. Il che si traduce in un vantaggio per la comunità internazionale, perché questo comporterà una riduzione dei costi per il mantenimento delle forze di sicurezza, e questo sul piano quantitativo. Su quello qualitativo, le forze di sicurezza afghane sono afflitte da limiti strutturali operativi molto concreti, peccano in capacità, in forza, certamente anche in coesione, e non sono in grado di mantenere probabilmente e gestire la maggior parte delle basi militari che la NATO lascerà loro dopo il 2014. E il fattore di maggior preoccupazione consiste nel fatto che non sono in grado di contenere un fenomeno insurrezionale in crescita costante. I fatti degli ultimi giorni lo confermano. Nel medio termine non credo che potranno garantire in autonomia la sicurezza e il controllo del territorio, in particolare nelle aree rurali del sud e dell'est del paese. I numeri parlano chiaro. Meno del 20% dell'esercito e poco più per quanto riguarda le forze di polizia sono in grado di operare in maniera indipendente, ma con la presenza di consiglieri, cioè in grado di coordinare le unità sul terreno ed eventualmente il supporto aereo. In più le truppe afghane necessitano di sostegno per l'operazione intelligence, per la sorveglianza, per la ricognizione e mancano di un equipaggiamento particolare che gli americani hanno ampiamente utilizzato, cioè quello dei droni. In più vi è da dire che a livello tattico le truppe afghane conducono effettivamente attività di pattugliamento, bonifica dei campi minati e controllo delle vie comunicazioni, ma qui ci limitiamo al livello tattico. Dal punto di vista logistico provvedono al rifornimento di cibo, di carburante, di acqua per se stessi, ma sono ancora incapaci di effettuare attività di pianificazione operativa e logistica e manutentiva, così come non sono in grado di gestire in maniera efficace la contrattualistica necessaria a sostenere lo sforzo complessivo delle forze armate. Il quadro che tratteggi è assolutamente dalle tinte fosche, soprattutto considerando appunto gli anni, 13 anni, i soldi spesi. Com'è possibile che non si sia riusciti a strutturare l'esercito? Non hanno l'aviazione, molto spesso non hanno nemmeno dispositivi di protezione individuale, cioè giubbotti antiproiettile, vanno a sminare senza veicoli adeguatamente protetti. E tutti questi soldi dove sono finiti? E tutta questa l'expertise occidentale dove è andata a finire? Ma diciamo che negli ultimi anni ci si è concentrati molto sui numeri e poco sulla qualità di questi numeri e anche degli equipaggiamenti. Gli equipaggiamenti stessi dati in dotazione all'esercito afghano, alle forze di polizia, sono gli equipaggiamenti desueti, non più in utilizzo dalle forze di sicurezza internazionali. Pensiamo ai fucili, sono i vecchi M16, i veicoli sono gli AMBI che gli americani non utilizzano più perché sono inefficaci nei confronti della minaccia degli EDI, gli ordigni esplosivi improvvisati. Non vi è un'aeronautica, un'aviazione in grado di sostenere le truppe da combattimento. Questo perché negli ultimi 13 anni le forze di sicurezza internazionali hanno condotto direttamente le operazioni sul campo, relegando a un compito di supporto o azioni a livello tattico, ma mai a livello operativo, mai a livello strategico, le forze di sicurezza afghane. Quindi dire dove siano finiti i fondi per la preparazione delle forze di sicurezza afghane, Non è facile se non guardando l'alto livello di corruzione che caratterizza l'apparato statale, burocratico, istituzionale afghano, di cui l'esercito è parte integrante. E se l'esercito rappresenta la realtà istituzionale forse meno corrotta, possiamo dire così, della stessa cosa non si può dire della polizia, dove a fronte di investimenti di un certo rilievo, di una certa entità, non si sono avuti riscontri concreti né nell'impiego del personale, né nel reclutamento, né nella dotazione degli equipaggiamenti. Questa era la pagina dedicata all'Afghanistan, una situazione che ancora, ovviamente, come avete sentito, fa preoccupare. 349-238-6666, c'era chi chiedeva perché il Qatar finanzia ISIS, perché il Qatar e altri paesi del Golfo finanziano gruppi estremisti sunniti in funzione anti-sciita, quindi contro l'Iran, contro la Siria di Bashar al-Assad, eccetera. È in corso un gigantesco braccio di ferro tra queste due correnti dell'Islam, e il Qatar è una di quelle che finanzia i movimenti sunniti. E gli analisti più fini, insomma, mi perdoneranno questa estrema semplificazione, ma era per rispondere al volo all'ascoltatrice. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano siamo partiti sì dall'Iraq, dal pericolo anche del terrorismo in Europa, però l'idea era anche di riaccendere i riflettori su quelle crisi che sono offuscate dagli ultimi recenti avvenimenti. Per questo tra poco vi parlerò della Repubblica Centrafricana, quel piccolo paese incastonato proprio nel cuore dell'Africa, dove vi sono dislocati 6.000 uomini delle forze di EU4, delle forze dell'Unione Europea, fra cui molti francesi e anche dell'Unione Africana. Ve ne parlo perché ieri vi è stata l'ennesima sparatoria, la cronaca non ce le consegna quasi più perché è quasi una normalità. Le milizie fanno il bello e il cattivo tempo al di fuori della capitale Bangui, ma a volte la violenza esplode anche proprio nella capitale. La Repubblica Centrafricana in realtà non è così lontana da noi, ci sono tantissimi espatriati che ci lavorano, ci sono anche degli italiani oltre che dei francesi. Vi era stato tra il 2008 e il 2011, la storia della Repubblica Centrafricana è molto molto turbolenta, c'era stato un leggero miglioramento, poi però nel marzo del 2013 Bozizé, il presidente, era stato estromesso da una ribellione chiamata Seleka, era un'alleanza di varie milizie, e da lì poi si è scatenato il caos. Le Nazioni Unite da tempo denunciano il rischio di un genocidio, ci sono motivi religiosi ma soprattutto il controllo del territorio, c'è l'uranio, ci sono i diamanti, e insomma subito dopo il traffico cercherò di descrivervi la situazione in questo piccolo e dimenticato paese, appunto, che è la Repubblica Centrafricana. Nessun luogo è lontano. In quest'ultima pagina di Nessun luogo lontano riaccendiamo i riflettori sulla crisi della Repubblica Centrafricana, che nei mesi scorsi aveva guadagnato spazio sulle pagine dei giornali nazionali e internazionali e poi fagocitata da quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Ovviamente ci si è dimenticati di quello che accade, ma vi dicevo, c'è gente che lavora, c'è gente che tutti i giorni cerca di piazzare bende, non solo metaforicamente, su quella situazione. Prima vediamo un quadro generale, e ci aiuta a farlo Thierry Viculon, che è l'esperto di Repubblica Centrafricana di International Crisis Group. L'abbiamo appena sentito, a lui ho chiesto di darci un quadro della situazione in RCA, Repubblica Centrafricana. Sentiamo. Well, I mean, it's a very dangerous situation because CAR is a country without a state. Come sentite, dice, la situazione è molto pericolosa. La Repubblica Centrafricana è un paese senza uno Stato, non c'è modo di garantire sicurezza, non esiste alcun governo, continuano i conflitti tra le minoranze iniziati l'anno scorso e gran parte del territorio è finito sotto il controllo di milizie armate. Quindi il serio pericolo deriva dal fatto che la Repubblica Centrafricana potrebbe completamente entrare in una zona grigia, anzi, dice lui, forse è già in una zona grigia. L'altra domanda che gli ho fatto: sappiamo che a settembre arriveranno 12.000 uomini per raggiungersi alla missione EU4, e ho chiesto se la presenza così massiccia di tanti uomini, di tanti soldati, potrà essere un deterrente per fermare le violenze. I mean, it will never be enough. What is planned is that the UN mission that is supposed to be deployed in September is in theory about 12,000 people. Dice, non potrà mai essere abbastanza, nel senso che è vero che la missione ONU prevede teoricamente di dislocare sul territorio 12.000 soldati, ma gli ufficiali hanno già reso noto che a settembre sarà possibile inviarne solo una prima parte, quindi 7-8.000 uomini. Inoltre bisogna considerare che la Repubblica Centrafricana è un paese molto grande, per cui anche quando EU4 riuscirà a dislocare tutti i suoi 12.000 peacekeepers, non saranno mai in grado di coprire tutti gli hotspot, i punti caldi sul territorio del paese. Nemmeno il doppio dei peacekeeper, dice, sarebbe abbastanza per coprire tutti i focolai, i potenziali focolai di violenza. Quindi non credo che la questione riguardi tanto il numero degli uomini dislocati quanto invece le reali capacità di negoziare la pace e la stabilità in Repubblica Centrafricana. L'ultima domanda che ho fatto a Thierry Virculon di International Crisis Group, che è un think tank, è un'organizzazione che si occupa di analisi politica e di sicurezza. Si è molto letto sui giornali, si è molto ridotto il conflitto che è nato in Repubblica Centrafricana a motivazioni religiose. In realtà ci sono anche molte risorse, e ho girato proprio questa domanda a lui, a Thierry, sentite. Well, I think it is obviously not a religious conflict per se. E dice, naturalmente non si tratta solo di un conflitto religioso, il controllo sulle risorse del territorio è un aspetto molto importante che alcuni degli attori in gioco hanno bene in mente. Una di queste risorse sono sicuramente i diamanti. La Repubblica Centrafricana è un produttore piccolo di diamanti a livello mondiale, ma queste pietre grezze preziosissime giocano un grande ruolo nella politica del paese sin dalla sua indipendenza, stiamo parlando degli anni 60. Ed è noto come in questo paese gli uomini politici hanno sempre beneficiato della produzione e del commercio di diamanti. E quindi dice, nella posta in gioco al centro di questa faida iniziata tra le varie milizie del paese c'entra anche la risorsa dei diamanti. Questa è l'analisi di Thierry Virculon di International Crisis Group sulla Repubblica Centrafricana. Andiamo in diretta a Bangui, la capitale del paese, e lo facciamo con Ombretta Pasotti, che è capo missione di emergency appunto a Bangui. Pasotti, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, dunque, emergency è presente da anni nel paese, con una clinica pediatrica fin dal 2009, dal 2013 date supporto a un ospedale pediatrico dove effettuate anche operazioni chirurgiche di urgenza, e poi durante il conflitto, quando il conflitto era più acceso, avevate anche cliniche mobili, infine un progetto di banca del sangue nazionale. Adesso che gli scontri sono un po' più sporadici, sempre tra virgolette, fate le dovute cautele insomma nell'affermare queste cose, che tipo di accessi avete alla vostra struttura ospedaliera, che tipo di malati accogliete? Allora, essendo tre progetti differenti da un ospedale all'altro, ci occupiamo di parte, tutti pediatria, ci occupiamo di parte medica nella clinica, quindi malattie endemiche, quindi in questo periodo soprattutto malaria. Nella parte chirurgica continuano ancora dei feriti di guerra, cioè, che vanno migliorando perché sono molto meno rispetto al passato, però ci sono, e ancora casi chirurgici legati a delle condizioni igieniche scarsissime. E sulla banca del sangue invece offriamo gratuità per le trasfusioni di sangue, vista la criticità del momento. Ecco, le condizioni di salute, le condizioni, scusi, igieniche a cui faceva riferimento, vi sono stati migliaia e migliaia di sfollati, di sfollati interni a causa del continuo conflitto. La vita in un campo di rifugiati è un problema perché ci si espone a condizioni di igiene pessime, l'acqua non è quella che andrebbe bevuta, il cibo è quello che è, e da questo punto di vista quanto è emergenziale la situazione? Beh, c'è stato un peggioramento, considerato che già di base è un paese povero, uno dei paesi più poveri al mondo, c'è stato un netto peggioramento nell'ultimo anno e mezzo, sia dovuto al fatto che il commercio è molto cambiato, perché come si diceva non è un conflitto interreligioso, però la parte musulmana, i musulmani hanno lasciato il paese per la maggior parte, di conseguenza il commercio ha subito un crollo, visto che era gestito in passato principalmente da loro. Oltre a questo, vivendo in situazioni in campi, in situazioni difficili perché l'acqua non è accessibile con facilità e i pozzi non sono accessibili, c'è una costante crescita sia delle patologie legate all'accesso appunto dell'acqua che alla malnutrizione, che quindi va a peggiorare poi tutti gli altri quadri sanitari. Ecco, fra l'altro, Ombretta Pasotti, spesso gli scontri esplodono senza alcuna possibilità di preavviso. Lei prima fuori onda mi diceva che proprio in questo momento, insomma almeno un'oretta fa, quando ci siamo sentiti davanti alla vostra sede, voi siete proprio di fronte al Parlamento lì nella capitale, c'era una piccola manifestazione di protesta contro la Presidente del Paese, e sono proprio quelle situazioni forse che vi fanno timore, no? Esatto, sì, la situazione sembra apparentemente calma, poi è costantemente volatile, quindi da un momento all'altro cambia la situazione. Appunto, dicevamo prima, una manifestazione qui di fronte, è stata durata 2 ore, adesso si è calmata, però a volte invece poi si complicano con sparatorie, con l'intervento dei militari, con l'intervento dei gruppi ribelli, quindi è veramente, è costantemente instabile. È molto difficile spostarsi perché le zone che apparentemente sembrano sicure, perché per qualche settimana restano calme, improvvisamente poi si complicano. Per noi è difficile, per lo staff che deve lavorare è difficile, insomma, per i pazienti che devono raggiungere anche l'ospedale, ogni spostamento è veramente in funzione di come è gestita la situazione all'esterno, quindi anche nella capitale. Ecco, Ombretta Pasotti, dicevo, ricordavo a inizio di questa pagina dedicata alla Repubblica Centrafricana che, se è vero che Bangui gode di una situazione relativamente calma, è fuori nella Bruce, nella foresta dove le milizie la fanno da padrone. Voi non riuscite a avere accesso a quelle zone, ovviamente, se sapete di scontri, se sapete di feriti, è troppo pericoloso, è troppo difficile muoversi per voi? A Allora, noi abbiamo Emergency a progetti su Bangui, quindi sulla capitale, però è molto molto difficile ogni spostamento sull'esterno, a volte quasi impossibile, perché ci sono gruppi armati e criminali che comunque impediscono alle organizzazioni di lavorare con serenità. E oltre a questo, gli spostamenti anche sul Camerun, quindi il commercio, per ora è completamente veicolato da convogli con pianificazioni settimanali, quindi anche la gestione dei materiali, dello stoccaggio, di tutto quello che può servire un progetto per essere portato avanti diventa complicato, perché non è facile accedere ai rifornimenti. Grazie, grazie mille Ombretta Pasotti per averci descritto la situazione della vostra missione Emergency a Bangui, Repubblica Centrafricana. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Torniamo alla parte di analisi di International Crisis Group. Vi dicevo, Thierry Virculon, che è esperto della Repubblica Centrafricana, vi dicevo all'inizio che una buona parte del contingente è francese, nel senso che i soldati francesi sono intervenuti quasi subito dopo lo scoppio delle violenze. A Thierry Virculon ho chiesto qual è l'interesse della Francia in questo conflitto e nella Repubblica Centrafricana. Well, I would say that the interest of France is the legacy of history. It's because, of course, it was a former French colony. Because even after Thierry Virculon dice: direi che l'interesse francese deriva dal legame storico della Francia con la sua ex colonia. Anche dopo l'indipendenza, la Francia ha sempre giocato un grande ruolo nella politica della Repubblica Centrafricana ed è stato il primo governo a chiedere questo intervento militare. Ma dal punto di vista economico c'è rimasto pochissimo di francese. Almost zero French interest. Le compagnie francesi hanno già operato qui prendendo quello che era di loro interesse e già da molti anni queste stesse compagnie francesi se ne sono andate e la Repubblica Centrafricana non rappresenta più un interesse economico. Potrebbe in teoria costituire un mercato di 5 milioni di persone, ma queste persone non hanno soldi, quindi non può diventare realmente un mercato. E quindi, dice l'analista di International Crisis Group, il legame è più che altro una questione storica, una questione che deriva anche dal fatto che la maggior parte delle ONG operanti in Repubblica Centrafricana sono francesi, che la diaspora centrafricana è finita principalmente in Francia. L'unico interesse economico rilevante francese è nell'industria di estrazione di uranio, in una regione meridionale della Repubblica Centrafricana che si chiama Bakouma. An uranium mine located in the south of the country called Bakouma. Questo settore a Bakouma è principalmente in mano alla compagnia pubblica di estrazione francese Areva, che ha acquistato i diritti di concessione per sfruttare le miniere della zona, ma dopo l'incidente di Fukushima l'Areva, pur mantenendo i diritti, ha deciso di interrompere lo sfruttamento di queste miniere. Areva decided to stop to actually not develop this mine. E quindi in sostanza l'eredità di una forte presenza coloniale e poi la presenza di quella Areva, la stessa che lavora ad esempio in Niger e Al-Qaeda nel Maghreb islamico, aveva minacciato, vi ricordate, la guerra in Mali, noi la raccontammo con dovizia di particolari, insomma la Francia era intervenuta per tutelare proprio gli interessi in quella zona lì, oltre ovviamente al cordone ombelicale dettato dall'avere a che fare con paesi che erano ex colonie. Allora, vi sono un po' di sms che volevo leggere, arrivati al 349-238-6666, sempre sulla questione del jihadismo. C'è chi commenta l'ultima parte della trasmissione che dice, insomma, era meglio questi paesi quando erano colonie. Torniamo invece alla questione degli sbarchi, se vi siano o meno jihadisti all'interno dei barconi. La gente che arriva, dice un ascoltatore, è disperata, facile da assodare al terrorismo proprio perché disperata e con cultura e ideologie leggermente diversa da quella europea. Inoltre il rischio di infiltrazione tra disperati io lo vedo un po'. Questo uno degli ascoltatori. Poi c'è ancora chi punta il dito sul grave guaio dei migranti e della spesa per mantenerli. E poi, allora, Paolo da Bologna che mi dice: mentre la trasmissione della Zanzara almeno ha una parte di destra con una controparte di sinistra, la mia trasmissione a differenza è assolutamente schierata. Mi scusi, mi dice l'ascoltatore, ma lei lo fa apposta o in malafede? Cosa vuol dire quelli col barcone non sono terroristi, sono quelli della seconda generazione? Anche in una tragedia come Ebola ne approfitta per parlare male del governatore Maroni, poi parla di retorica fatta dagli altri, esami di coscienza, eccetera eccetera eccetera. Allora io dicevo che non credo che un'organizzazione ben strutturata come ISIS si metta a usare i barconi per infiltrare terroristi in Europa, quando è vero il contrario, come ci raccontava l'analista Lorenzo Vidino, che da Londra, da Parigi partono con un aereo, con un passaporto regolare, sono seconde generazioni, sono persone che vivono qua col passaporto britannico e poi eventualmente tornano in Europa a colpire. Devo salutarvi, un ringraziamento a Nadia Zammitti, Mire Lucchetti, Filippo Reggi in regia. Buona giornata, noi ci risentiamo domani alle 16 quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.